Zolt. Fulminati in azienda. Mi tocca fare come a scuola, siamo nel periodo delle pagelline. Ma no, no, ma ti prego, centri, non sminuire anche con questa terminologia. È un momento così importante della vita aziendale. Si tratta di attivare un processo di valutazione. Ma sempre delle pagelle stiamo a parlare, no? Ma quali pagelle, pagelline? È un sistema di valutazione a 360 gradi in cui tutti valutano tutti secondo 182 variabili comportamentali e relativi. Te posso dire una cosa? Ma alla fine sempre di un voto si tratta, no? Ma no, centri, no. Neanche più a scuola usano i voti numerici. Anzi, si danno giudizi, si scrivono giudizi articolati. Mo vediamo, guarda, Marco sta arrivando, sentiamo cosa c'è da fare. Ma è stato lui a volerlo. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, scusate il ritardo, buongiorno. Allora, FCS, finalmente ci siamo. Come vi dicevo nella mail, si parte con le pagelle di metà anno. Centri, hai preparato le pagelle? Eh sì, è solide. Bene, voti da 1 a 10, voto 1, mi fai schifo come uomo e come professionista, voto 10, ottimo, ma puoi fare di più. Dal 2 al 9 decidete voi. Tutto chiaro, schedula? Ma veramente io pensavo ad un sistema 360. Grazie, sono d'accordo, mi fa piacere che anche tu sei d'accordo. E adesso pedalare e andare a lavorare. E non dimenticate mai, valutare humanus est. Avanti, avanti, Font. Wait, cosa posso fare per scusa, te? Marco. Prego. Veramente sono un po' risentita. Sì. Non mi hai coinvolto nel progetto sulla valutazione di metà anno. Le pagelline? Vabbè, ma usiamo quelle dell'anno scorso. Ma no, Marco, ti prego. L'anno scorso andava il giallo limone, il carattere gothic. Quest'anno va il prugna, il carattere tribale neo-savage. Vabbè, Font, ascolta, fai quello che vuoi tu, mi fido. Facciamo un gotico prugna, però budget zero. Avanti. Scusa Marco. Ma vuoi super consulente, ma com'è che mi arrivi senza che io ti chiami, No, è che ho saputo di questo progetto della valutazione dei dipendenti a 360 gradi. Ma le pagelline, stai parlando delle pagelline. Di solito mi coinvolgi in un tema di progetto congiunto in cui la consulenza insieme alla committenza. Senti, ma non pensavo che fosse necessario disturbarti, paragone, dai. Per me sarebbe molto importante dare il mio apporto. E ascoltami bene, guarda, parla con Schedula, lavora con lei, ma che cos'è che avete tutti qui? La sindrome della Margherita, mi coinvolgi, non mi coinvolgi, mi coinvolgi, non mi coinvolgi, mi coinvolgi, non mi coinvolgi, mi coinvolgi, non mi coinvolgi, mi coinvolgi. Avanti, avanti, ma oggi lavorare non se ne parla, avanti ho detto. La mi scusi, dottor, ma ho saputo adesso. Cosa c'è? Che cosa vuoi? Che cosa c'è? Chi sei? Cosa vuoi? Ho saputo che parti un progetto di valutazione dei dipendenti e siccome amico ho fatto il master in valutare meglio che punire, pensavo Vai alla lavagna, Paco, prendi il gessetto, vai alla lavagna e scrivi adesso. Sì. Io sono uno stegista, devo obbedire e non pensare. Scrivi mille volte, vai, ripeti io con me. Io sono uno stegista, devo obbedire e non pensare. Bravissimo. Io sono uno stegista e devo obbedire. Adesso non pensalo, pensalo. Io sono uno stegista, devo obbedire e non pensare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. Vi ho convocato perché MCS non ci siamo. Ma è possibile che per dare 4 voti qui ci sia stata la Via Crucis? E allora ho deciso, quest'anno i voti li do io. Venite tutti sabato mattina a ritirare le pagelle accompagnati. Ma accompagnati da chi, Marco? Dai genitori, centrifuga, dai genitori. O chi ne fa le veci? Allora mi devo fare accompagnare da mia moglie. Che vergogna. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T